nel mezzo del cammin di nostra vita. Life! Mi ritrovai per una sillaba oscura. Dark! Che la diritta via era smarrita. Lost! Signore e signori, scusate, il nostro pezzo culturale. Niente oramai mi soddisfa, oramai. Ah, ah, ah, nuove emozioni cercasi. Oh, oh, oh, occhi di gatto. Raymond che non scrive meglio di Alapo. Ci mette penso se è il mio libro preferito, lo conosco a mena dito. Marchi Pessac, ci incontriamo in promenade. Prendo il metro sotto braccio a Jean Cotto. Ma sai che la cultura è divertente, serve a farti diventare intelligente. E il dito sono molto interessante. Tiro fuori mentre leggo Jean Cotto. Ho saputo che qualcuno ha finito l'anno scolastico con dei debiti. Muzzi. Dunque, adesso interroghiamo. Qualcuno vuol venire volontario, ad esempio Muzzi? No? No. Procediamo all'estrazione. Cianci, Mellino, Muzzi. Cianci Mellino Muzzi, Cianci Mellino Muzzi, Cianci Mellino Muzzi. Muzzi! Pregherò per te. La città dolente per me, si va nell'eterno dolore per me, si va tra le brutte gente, lasciate ogni speranza. Oh, voi che entrate! Montale, Montale! Montale! No! Manzoni, Manzoni! Manzoni! No, Muzzi! No! Alfieri, Alfieri! Alfieri! No! No! No! Dante Alighieri! Susanna Tamaro! Bocciato! Raymond che non scrive meglio di Alapo. Ci mette peso se è il mio libro preferito, lo conosco a menadito. Marchi De Sa, ci incontriamo in promenade. Prendo il metro sotto braccio a Jean Cotto. Ma lo sai che la cultura è divertente, serve a farti diventare intelligente. E il rito suona ancora più interessante. Tiro pugni mentre leggo Jean Genet.